Italia in controluce. Buongiorno a tutti da Daniele Biacchessi. Oggi è il 25 di ottobre, questa è Italia in controluce, l'approfondimento di Radio 24 che entra nelle notizie. Oggi naturalmente la notizia più importante, quella politica, riguarda le primarie del Popolo delle Libertà, perché Silvio Berlusconi, lo sapete, non si ricandida, così ha detto, e ha lanciato per il 16 dicembre le primarie del suo partito. È certamente, a mio avviso, una grande svolta politica e organizzativa dell'ex partito di maggioranza, che si trova per la prima volta a scegliere un candidato premier attraverso una competizione vera tra candidati. E allora innanzitutto saluto Piero Ignazzi, che è professore editorialista dell'Espresso. Buongiorno Ignazzi. Buongiorno. Allora dico anche ai nostri ascoltatori al 349-238-6666 se, come dice Bossi, sarà difficile che poi Berlusconi non si ricandidi pur lanciando le primarie del Popolo della Libertà. Questa è una dichiarazione di poco fa. Umberto Bossi ha detto: no, non ci credo, non credo che Berlusconi lasci così il campo all'avversario. Questo è quello che ha fatto capire poco fa i cronisti di Montecitorio. Siete d'accordo? Anche voi pensate come Bossi che poi in realtà Berlusconi stia facendo più della strategia politica, oppure siete convinti che veramente il Popolo di Libertà vada poi alle primarie del 16 dicembre? 349-238-6666, allora Valeria De Rosa in studio. Sì, buongiorno a te Daniele, ai nostri ascoltatori. Diciamo subito che si è scatenato un dibattito molto acceso dopo questo annuncio, intanto all'interno dello stesso PDL, tra chi ha accolto la notizia con favore e chi invece si è dimostrato scettico. Non solo Bossi da parte della Lega, ma ad esempio lo stesso Dell'Utri ha dichiarato che l'abdicazione di Berlusconi non salverà il partito. Tra gli ex DAN tra chi ad esempio anche coloro che sono andati poi nel movimento di Fini, ad esempio della Vedova, ha affermato che ormai è troppo tardi. Tra chi è fuoriuscito dal partito, come Straguadagno, che adesso è nel gruppo misto e che ha ribadito che il PDL è finito, ormai ha dichiarato Straguadagno, si tratta di lotte fra tribù, perché la maggior parte dei componenti della classe dirigente del PDL ha cercato di guadagnarsi piccole rendite di posizione invece di pensare a costruire un'organizzazione politica forte. E in tutto questo panorama ovviamente si è già anche scatenato il totonomine, e c'è anche chi ha già ufficializzato la propria candidatura, ad esempio Giancarlo Galan, ex governatore del Veneto ed ex ministro, lo ha annunciato proprio qui ieri sera alla Zanzara, sentiamolo. Mica potevo candidarmi contro il mio padre politico, certo. Se non c'è più, se si apre un dibattito interno, benissimo, sì. Io rappresento intanto una buona storia di amministrazione di una regione importante come il Veneto. Non c'è secondo dubbio. Cerco di rappresentare l'area liberale, dopo gli amici, con gli amici sceglieremo che cosa sarà più opportuno fare. Scusi, ma si candida. Candidatura c'è, certo. Dobbiamo dire che negli ultimi mesi all'interno del PDL, in cui ovviamente è stata piuttosto forte la crisi del partito, ha trovato spazio un movimento in particolare, quello dei formattatori, un movimento molto critico che ha detto di non aver più voluto tollerare questa classe dirigente che ha sprecato una congiuntura che gli aveva portato una maggioranza molto alta e che in un paio d'anni è riuscita a dimezzare il consenso intorno al partito. Leader di questo movimento dei formattatori è Alessandro Cattaneo, che è anche il sindaco di Pavia, lo abbiamo raggiunto poco fa. Finalmente siamo approdati a questa decisione, una decisione che ridà la parola ai cittadini, agli elettori, al popolo del centrodestra, che è probabilmente deluso, un po' disaffezionato, ma esiste, è numeroso e ha voglia di dire la sua. Facciamo scegliere a loro, ai cittadini, chi sarà il candidato premier per il centrodestra, ma facciamogli anche scegliere poi da lì scendere tutti i voti, le facce credibili, spendibili per rappresentarli nelle prossime tornate elettorali. Ritiene che questa sia stata una mossa tardiva? Ma insomma, insomma, tardiva o non tardiva, l'importante è che sia arrivata. Oggi la politica ha dei tempi anche molto molto rapidi e quindi sì, arriviamo magari con qualche mese di ritardo rispetto anche a quanto noi invocavamo, però arriviamo anche in un momento giusto. La sinistra si sta dilaniando su queste primarie, sono diventate anche molto accese e violente nei toni. Noi abbiamo la possibilità di riattivare un dibattito. Lei ci sarà tra coloro che si candideranno? Ci saranno i cosiddetti formattatori, ci saranno i sindaci degli Achiamò, insomma ci sarà tutto quel popolo di amministratori con facce, storie credibili che ancora oggi ci mettono tanto impegno e passione per il centrodestra, che hanno urlato il loro bisogno di rinnovamento di quest'area e che oggi vedono una possibilità. Sì, ci saremo, su chi ci sarà in particolare, guardi, mi sembra molto più importante in questo momento far partire un progetto politico di area centrodestra. Io non mi sono mai sottratto alle mie responsabilità, vedremo un po' nei prossimi giorni. E rispetto ai nomi che si sono già fatti avanti, Santanchè, poi Alfano... Guardi, l'importante è che riusciamo anche come principio a far sì che le primarie possano intercettare tutti i segmenti del popolo del centrodestra. Alcuni dei nomi che ha citato mi trovano in forte distinzione rispetto all'idea del centrodestra che ho. Questo voglio dire, però rispetto le idee di tutti e sarà bello misurarsi nei fatti. Le prossime elezioni in Sicilia, se andrà male, che cosa potrebbe succedere per il partito? Bene o male, i due scenari sono ovviamente tra di loro diversi per le conseguenze politiche che potranno avere. Il fatto però di avere anticipato con il metodo delle primarie un modo per indicare, scegliere la prossima classe dirigente è stata una buona mossa. In questo senso voglio anche sottolineare che Berlusconi è stato ancora una volta più avanti degli altri. Una battuta può essere, spero che altri lo raggiungano in questa scelta. Ecco, grazie Valeria De Rosa, l'intervista sua ad Alessandro Cattaneo, molto interessante, leader dei formattatori, sindaco e buon amministratore, aggiungo, di Pavia. E i vostri sms 349-238-6666, penso che Berlusconi sia sincero e stia cercando di compattare il partito convincendo Monti a candidarsi con il Popolo delle Libertà, dice Liliana da Milano. Silvio è sempre il numero uno, vi stupirà ancora, tutta commedia non abbandonerà mai, dice Roberto. Senza Berlusconi, dice Corrado da Como, il PDL che cos'è? Il PDL semplicemente, secondo Corrado da Como, non esiste. Poi ci sono altri ascoltatori al 349-238-6666, poi c'è Piero Ignazzi che ha ascoltato con pazienza. Professore, pensa che Berlusconi stia facendo sul serio oppure strategia politica? Sempre difficile interpretare Berlusconi. Aveva già preannunciato l'abbandono dalla politica, è rientrato, questa volta riesce, mi sembra con un annuncio piuttosto sincero, direi, con una presa d'atto di una situazione che si è molto degradata per quanto riguarda la sua credibilità, la sua presa nell'elettorato e anche addirittura nel suo elettorato. Ci sono dati, sondaggi estremamente deludenti, appunto, sia per il PDL ma soprattutto per Berlusconi, e credo che abbia preso atto che una sua candidatura sarebbe stata veramente molto molto molto poco gradita all'elettorato. Ecco, ma un personaggio chiave per la storia del centrodestra, almeno degli ultimi 20 anni, come Berlusconi, che quindi si fa da parte, si mette da parte, lancia le primarie. Le primarie, come lei sa, sono un mezzo importante, straordinario, ma anche molto complicato da gestire. Sì, infatti vedremo se ci saranno, come ci saranno. Dire primarie non ha alcun senso, come poi abbiamo verificato a guardare quelle che sono venute al centro-sinistra, diciamo, delle regole, come chi potrà candidarsi, attraverso quale modalità e sistema elettorale si voterà, chi potrà partecipare al voto, insomma veramente tante variabili, per cui adesso è ancora un po' presto parlare di primarie. Certo che questa è una sorta di, come dire, apertura di un vaso di Pandora, per cui a tutte le varie ambizioni, legittime ambizioni di molti personaggi, molti sub-leader che fin qui presente Berlusconi non potevano esprimersi, adesso si esprimeranno e credo ci sarà una proliferazione di gruppi, componenti, candidati che potrebbe fare del bene a questo partito del centrodestra che si chiama ancora PDL o che prende un altro nome, oppure potrebbe rivelarsi invece un elemento disgregatore in maniera molto, molto drammatica. Grazie professore Ignazzi, al microfono di Italia in Controluce. Levarsi d'attorno delinquenti, questo dovrebbe fare il Popolo della Libertà, dice Pierluigi. Galan ha messo il ginocchio AS4 con un contratto capestro sul nuovo ospedale che è secretato, dice Fornella, e così via. Questi sono gli ascoltatori di Radio 24 che hanno fatto il 349-238-6666. Domani per par condicio parleremo delle primarie del Popolo, del Partito Democratico.